America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Milano. Mario Platero, sono qui in Italia dopo aver partecipato a un incontro sulla politica americana a Firenze. Ne abbiamo parlato ieri, ma oggi vorrei parlarvi d'altro, del viaggio del presidente americano in Asia. Grande atmosfera zen, atmosfera di pace nell'incontro tra il presidente americano, premio per la pace, Barack Obama, e San Suu Kyi, che è anche lei premio Nobel per la pace, leader dell'opposizione a Burma, 15 anni di prigione per queste sue posizioni, una grande paladina della libertà. Ecco, a Rangoon, dove si sono incontrati, c'era un'atmosfera straordinariamente pacifica, devo dire molto diversa da quella che c'è invece in altre parti del mondo. Medio Oriente, le ostilità continuano a Gaza. La novità è che Barack Obama dall'Oriente ha deciso di mandare il segretario di Stato Hillary Clinton per mediare. È un viaggio importante quello di Hillary, un viaggio a Ramallah, Gerusalemme, al Cairo. L'obiettivo è anche quello di innalzare la statura di mediatore del presidente egiziano Morsi, cosa che ancora non è successa. Qualcuno si è domandato, ma come mai Obama è in Oriente invece di essere a Gaza? Perché a Gaza non avrebbe concluso veramente granché, ci andrà quando il momento è giusto. Ci sono una gran quantità di accordi commerciali che si stanno negoziando in Oriente attorno all'ASEAN, il presidente è già a Phnom Penh, prima visita di un presidente americano a Cambogia, Cina, Giappone, Sud Corea stanno negoziando un accordo per il libero scambio, gli Stati Uniti guidano il Trans-Pacific Partnership e poi c'è il Regional Comprehensive Dialogue, sono tutti accordi per aprire i commerci che sono poi la base della crescita. Crescita che purtroppo anche in Oriente non va per il meglio. Cina al ribasso, siamo intorno al 7%, India forse al 6%. Ma vorrei tornare alla politica, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo parlato dei cambiamenti demografici, la necessità di rifondare il Partito Repubblicano. Ecco, c'è qualcosa che cambia, ma c'è anche qualcosa che cambia molto poco in politica. I know how to change the nation, how to get it back on course, how to create jobs, how to get a balanced budget, how to get rising take home pay. Uno degli aspetti che cambia è l'aspetto demografico. Un aspetto che non cambia invece è quello che riguarda il comizio, la campagna elettorale. Vi ho fatto sentire appena adesso uno spezzone di Mitt Romney, un cosiddetto stump speech, quando si sale su una piattaforma e si comincia a parlare al pubblico senza interruzione, arringando la folla. Ecco, io ho seguito in questa campagna elettorale i candidati, come si dice, on the road, e l'esperienza, beh, devo dire, l'esperienza è sicuramente affascinante, travolgente, entusiasmante, ma è anche un'esperienza che non cambia rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa, cioè è la stessa. Mentre è intervenuto nella dinamica della campagna elettorale, per esempio, l'aspetto digitale, per cui queste elezioni sono state le prime che hanno avuto una straordinaria influenza di internet, di Twitter e così via, c'è stata, come vi ho detto, questa modifica dal punto di vista demografico, il rapporto umano c'è sempre e l'essere in giro per seguire questi candidati che vanno quasi a volte porta a porta. Mi ricordo che una volta con George Bush Senior andai in giro per un paesino della Pennsylvania e si andava in giro proprio porta a porta a bussare nelle varie case. Ecco, questa è una realtà che non cambia ed è una realtà che richiede una presenza costante. Ecco con me qui in redazione una persona che questa presenza costante nel corso delle primarie e poi delle elezioni, beh, devo dire, l'ha tenuta, ed è Andrea Marinelli. Andrea Marinelli è con noi qui in redazione a America 24 / IMC, ha cominciato a lavorare con noi alcuni anni fa, poi è scappato per andare all'avventura, appunto seguire queste primarie di città in città. Buongiorno Andrea. Buongiorno Mario. Allora Andrea, siamo arrivati un po' a un punto importante qui, perché io ho nelle mie mani un libro e Andrea ha scritto un libro su questa sua esperienza di città in città, di paese in paese, seguendo i candidati, e questo libro si chiama L'ospite, Pullman, divani, autostop all'inseguimento delle elezioni americane. Sono molto orgoglioso, devo dire, di questo libro, perché Andrea poi è arrivato, ha cominciato a lavorare con noi quando non era neanche giornalista professionista, e questo libro tra l'altro è stato self-published, quindi potete anche voi pubblicare i vostri libri con Amazon, lo trovate su amazon.com. Però tu, Andrea, devo dire ammirevolmente, questo tuo inseguimento delle elezioni americane e delle primarie lo hai fatto andando nei divani di persone sconosciute, o sbaglio? È effettivamente un inseguimento delle primarie repubblicane fatto con pullman su divani e con autostop. Ecco, ma dici come funziona? Perché la gente pensa che l'America sia un paese pericoloso, ma è guai andare con gli sconosciuti. Ecco, invece tu che facevi? Andavi su internet e c'era qualche sito dove ti trovavano una sistemazione? Raccontaci esattamente come si gira l'America andando a dormire sul divano di sconosciuti. Io avevo iniziato con le primarie dell'Iowa, con il caucus dell'Iowa, inizio gennaio. Ero andato in un motel e avevo preso un volo low cost, e questo ovviamente aveva influito pesantemente sulle mie finanze, quindi mi sono dovuto industriare. Dalle primarie successive ho saltato il New Hampshire, sono andato in South Carolina, e lì mi sono iscritto a un sito che si chiama Couchsurfing, dove degli sconosciuti mettono a disposizione il proprio divano a viaggiatori temerari che cercano un letto gratuito o normalmente un divano. Quindi esiste un sito, si chiama Couchsurfing, ma vediamo di dire ai nostri ascoltatori come si fa. Cioè, tu vai, metti il nome di una città, trovi una persona, come funziona esattamente? È un Facebook con un obiettivo. Tu hai un profilo che devi compilare, altrimenti non sei ritenuto una persona credibile, oppure non sei parte della comunità. Quindi più compili il profilo, più è dettagliato, più la gente decide se accettarti o meno, perché tu fai una richiesta ma puoi anche essere rifiutato. E allora raccontaci questa tua esperienza porta a porta nei divani americani, nei posti sperduti di questo enorme grande paese. Raccontaci un episodio divertente, curioso, che ti ha colpito. Beh, uno dei più divertenti è stato all'inizio in South Carolina, quando ero ospitato da due studentesse universitarie che erano titubanti come me al couchsurfing, era la loro prima esperienza, e quindi non mi lasciavano le chiavi. Una delle ultime sere, dopo una giornata lunghissima culminata con un comizio di Newt Gingrich, le chiamo per sapere dove erano in discoteca, e io sono dovuto andare con loro in discoteca fino alle 5 della mattina. Cosa ti ha colpito dell'intensità delle primarie o comunque dei comizi di questi candidati? Immagino per te è stata la prima esperienza, no? Per me era la prima esperienza, e sono rimasto impressionato dalla ripetitività del comizio, che era sempre lo stesso ovunque andavi, se era un centro culturale filippino, se era un poligono di tiro, se era un bar o un diner di periferia. Il comizio era sempre lo stesso, erano sempre loro che parlavano cercando di dare il messaggio alla gente del luogo. Quindi mi ricordo in Louisiana c'era Romney che si rivolgeva ai portuali di Pascagoula. Era sempre lo stesso messaggio alla fine, come dici te, alcune cose cambiano, altre restano sempre le stesse. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vesti tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di cambiamenti, bilancio di queste elezioni americane. Cambiano, non cambiano, alcune cose cambiano drasticamente, altre no, ma visto che è più il cambiamento quello che ci interessa, le richiamo la canzone del giorno a Bob Dylan, The Times Are Changing. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!